Today's Dhamma talk is entitled Satipatthana Part 1 with the subheading Mindfulness and the Hindrances. Il discorso di questa sera si intitola Satipatthana Parte 1, cioè prima parte, con il sottotitolo Satipatthana e i cinque ostacoli, e gli ostacoli. Mindfulness, quindi la consapevolezza e gli ostacoli. Okay. Now, to start with a short quote from the Anguttara Nikaya, and there in the fourth volume, we have under the heading The Arising of Mindfulness a very short discourse that is entitled The Training, and it says, Monks, I'll give you the book. Monks, nuns, and lay meditators, there are these five which are a source of weakness to training. What five? Allora, sta prendendo dal Anguttara Nikaya, the fourth volume, il quarto volume, allora, The Arising of Mindfulness, che si intitola Il sorgere della consapevolezza, c'è questo breve sutta che riguarda l'addestramento. Ci sono cinque cose che sono una fonte di debolezza riguardo all'addestramento. And what do you think those five are? Allora, cosa pensate che siano questi cinque? Sense desire. Aversion. So you were mentioning all the hindrances. Sloth and horror, yeah, the whole narrative is there. So, very good, but even better, even preceding those five, there's another set of five, namely the five five transgressions. Allora, i vostri suggerimenti sono venuti fuori i cinque ostacoli, ma ancora prima dei cinque ostacoli ci sono le cinque trasgressioni, c'è un altro elenco di cinque. And so, those five transgressions are taking life and taking what is not given, and then indulging in unlawful sexual relations, wrongful speech, and certainly taking to intoxicating substances. Quindi, in poche parole, sarebbero i cinque precetti, cioè togliere la vita, prendere ciò che non si è dato, usare una condotta sessuale non corretta, usare la parola non retta, e utilizzare delle sostanze non salutari, nocive, tossiche. And then, when putting away these five sources of weakness, what will arise? Quindi mettendo da parte queste cinque fonti di debolezza, cosa sorgerà? Four things. Quattro cose. Well, we're practicing it here. Four foundations. Ah, there you go. Allora, so the four establishments of mindfulness. Quindi sorgeranno i quattro fondamenti della consapevolezza. So the Buddha has put it in the following words: when these five sources of weakness to training are put away, four, and so all translation here, arisings of mindfulness should be made to become. What four? So four foundations should be made to become. Allora, nelle parole del Buddha, quando queste cinque trasgressioni vengono messe da parte, allora vengono a crearsi i quattro fondamenti per la consapevolezza. E quali sono questi quattro fondamenti? And those four establishments of mindfulness are the mindful contemplation of the body, Kaya Nupassana Satipatthana, then the mindful contemplation of feelings, Vedana Nupassana Satipatthana, mindful contemplation of the mind, Citta Nupassana Satipatthana, and finally mindful contemplation of Dhammas, Dhamma Nupassana Satipatthana. Allora, questi quattro sono la contemplazione del corpo, Kaya Nupassana Satipatthana, poi secondo sono le sensazioni, Vedana, Nupassana, Satipatthana, poi il terzo è la coscienza, e quindi Citta, Nupassana, Satipatthana, e il quarto è sono le formazioni, la mente, dhamma, dhamma, yeah. Dhamma non passano, satipatthana. Yes, right. And so we shall, today we shall deal with those, briefly deal with the four establishments of mindfulness, and in particular concentrate on mindfulness itself, and then right away apply this mindfulness to the hindrances, in particular the first hindrance. Allora, questa sera prenderemo in esame i quattro fondamenti della, della consapevolezza, poi la consapevolezza stessa, e poi il sorgere della consapevolezza in relazione ai cinque ostacoli. The reason for choosing this topic is that this is what is happening in the practice of a number of meditators, namely the hindrances will be there, will be giving trouble, and then one needs to know how to deal with them. Motivo della scelta di questo argomento è che nella meditazione, nella pratica di diversi meditanti nel gruppo, ci sono questi cinque ostacoli, si stanno verificando questi cinque impedimenti, e quindi è utile conoscerli e sapere come affrontarli per superarli. Now, the form of meditation that we're practicing here together is known in the Pali scripture language as Satipatthana. La forma di meditazione che stiamo praticando è conosciuta nella lingua delle scritture come Satipatthana. And so this Satipatthana meditation is based on a number of different sources, such as the Satipatthana Sutta from the Middle Length Discourses, the Mahasatipatthana Sutta from the Long Discourses, then some sections here from Anguttara Nikaya, there's plenty in the Samyutta Nikaya, etc., etc. Quindi ci sono diverse fonti che sono alla base di questo Satipatthana, questa meditazione di Satipatthana, Vipassana. Allora, primo intanto è il Satipatthana Sutta, che è preso dal Nikaya dei discorsi di media lunghezza. Poi c'è il Maha Satipatthana Sutta, preso dal Nikaya dei discorsi lunghi. Poi c'è ancora un pezzo dell'Anguttara Nikaya. E poi del Samyutta Nikaya. Quindi ci sono varie fonti in cui si parla del Satipatthana. Yes. And when we think of the four establishments of mindfulness, namely with regard to the body, feelings, then the mind and Dhamma, then it can be said that they are arranged according to an increasing refinement. So the observation of bodily formations is relatively coarse, whereas the observation of the mind and dhammas is relatively refined. Allora, l'ordine di questi quattro fondamenti della consapevolezza, quindi il corpo, le sensazioni, la mente o coscienza e i Dhamma, sono ordinati, allora questi quattro fondamenti sono ordinati in base alla loro raffinatezza, come dire, si dice raffinatezza, quanto sono raffinati praticamente. Quindi il primo, il corpo, sarà un oggetto più grossolano rispetto per esempio alla mente o ai Dhamma, che invece saranno più raffinati, più sottili. And in general we can say that practicing each and every one of those four establishments of mindfulness may lead to the realization of the ultimate goal, the highest goal. Però si può dire che praticando, osservando, sviluppando la consapevolezza rispetto a ciascuno di questi quattro fondamenti, allora questo può permettere di raggiungere comunque l'obiettivo più alto, la meta più alta, più elevata. So, all four have therewith a tremendous potential. Quindi, towards liberation. Tutti e quattro hanno in sé un grande potenziale per la liberazione. Now, the Buddha has remarked with regard to mindfulness, mindfulness, I declare, is helpful everywhere. Allora, il Buddha ha detto, e la consapevolezza, io dichiaro, è utile ovunque. and so one might add, the more one practices this mindfulness, the more one will understand this. E si può aggiungere che più viene praticata questa consapevolezza e più questo viene compreso. Now, what is relevant to us tonight is the term Satipatthana itself and then its meaning. Quello che per noi è rilevante è proprio il termine Satipatthana e il suo significato. And this term, even though it has been written about and spoken about a lot, still is a technical term that is being rendered differently, and there is no absolute translation of it so far, absolutely correct translation. Quindi questo termine, commonly agreed upon translation. Questo termine Satipatthana, nonostante tutte le cose che siano state scritte su questo termine, è ancora come dire, è soggetto a varie diverse interpretazioni e non c'è ancora una traduzione del termine sulla quale tutti sono d'accordo. So, this Pali term Satipatthana can be broken up in three different ways. Namely, as sati and upatthana as the first possibility, then as sati and patthana as the second possibility, and then as sati, then the particle pa and tana. So sati pa tana. Quindi ci sono tre modi in cui si può dividere questa parola satipatthana. La prima è sati e poi upatthana. La seconda è sati e poi patthana. E la terza possibilità è dividerlo in tre: sati, u, patthana. Now, to start with the interpretation from the Majjhima Nikaya commentary, Atthakatha, which takes or which breaks the term satipatthana into two parts, or into sati and patthana. And then saying sati means mindfulness and patthana means foundation. So then it becomes foundation of mindfulness. Allora prendiamo la prima definizione presa dai commentari del Majjhima Nikaya, in cui satipatthana viene diviso in due, è precisamente sati e poi patthana. Allora sati viene tradotto come consapevolezza, patthana come fondamento. Now, the path of discrimination, the so-called Patisamida Magga, disagrees with this and says the term should be understood as consisting of the following two parts, namely sati and upatthana, which then gives a different rendering. Allora, invece il sentiero della purificazione, sati and upatthana. Yes, the path of purification. Yeah, Patisamida Magga. Patisamida Magga. Disagrees. Allora, non è d'accordo con questa traduzione, con questa interpretazione, e piuttosto dice che la parola satipatthana va divisa in due, ma sati upatthana, e quindi ovviamente il significato è completamente diverso. Yes. And so sati remains the same, namely mindfulness, and upatthana is then translates as establishment. Allora, in questo caso allora sati rimane uguale, quindi la consapevolezza, e upatthana vuol dire lo stabilizzarsi. Yeah. And and then the path of purification, the Visuddhimagga elaborates on this and explains what is meant by establishment by saying the observing mind approaches the object and remains there. Allora, Visuddhimagga poi aggiunge un'altra spiegazione dicendo cosa si intende per questo stabilizzarsi. Allora, significa che la mente raggiunge l'oggetto e lì vi rimane. Now, Venerable Analayo in his certain book Satipatthana, as well as certain Professor Rice Davids, have proposed yet another way of rendering this term. Allora, Analayo nel suo libro Satipatthana, così come Rice Davis, un altro scrittore, hanno dato ancora un'ulteriore spiegazione di questo termine satipatthana. In this case, the term again gets broken up as sati and upatthana, and then upatthana is being well defined or translates as placing near, being present. Allora, qui è diviso di nuovo in sati e poi upatthana, però upatthana viene tradotto come l'essere prossimo, l'essere vicino o essere presente. And furthermore, attending to something with mindfulness. E occuparsi di qualcosa con consapevolezza. Waiting on someone. E quindi waiting è più come servire qualcosa. And looking after someone. O di nuovo badare a qualcosa. And so this explanation is, or evidence is given for this explanation in the sense that the term upatthati, the verb, is found in the texts in various places, and oftentimes in the meaning given just now. E a prova di ciò viene fatto notare che il verbo upatthati si trova nei testi, nelle scritture, in vari contesti, e in questi contesti conferma questo significato precedentemente dato. And so when discussing whether it should be sati and patthana or sati and upatthana, the Sanskrit term is certainly helpful, because there it's given as smirti upasthana, and so a reference to or this is pointing to the fact that sati and upatthana is the more likely version. Sì, allora nel decidere quale sia quella più corretta, cioè sati patthana o sati upatthana, allora può venire in aiuto il corrispondente termine in sanscrito. Can you just repeat the Sanskrit? Smirti upasthana. Smirti upasthana, che ovviamente è più simile alla seconda versione, quindi questa valorerebbe la divisione in sati upatthana. And in modern Nepali, so the language spoken in Nepal, mindfulness is given as smirti. So it's this Sanskrit word. Quindi smirti, questa parola in sanscrito, è anche la parola usata nel nepalese moderno. Now, when we put all of this together, and then the result is mindfulness, sati, that stands by, that is present, that is ready at hand. Allora, mettendo insieme tutte queste informazioni, possiamo dire che quindi sati è quel tipo di attenzione, quella consapevolezza che sta accanto, che è pronta, che è disponibile, è a portata di mano. And thus we can say presence of mindfulness or attending with mindfulness would be a nice way of translating it. Quindi può essere tradotto come presenza della consapevolezza o occuparsi dell'oggetto con consapevolezza. Now, for the time being, we shall stick to the translation as establishment of mindfulness. Dunque, per adesso noi ci manteniamo alla definizione di satipatthana come fondamenti della consapevolezza. And so, this is certainly the preferred way of translation in the Mahasi tradition. Did you say foundation or establishment? No, establishment. Establishment, scusate. Quindi non fondamenti della consapevolezza, ma lo stabilizzarsi della consapevolezza. E questo perché è il termine più usato nella tradizione Mahasi. And the way Sarupandita defines it is as firm and close and steadfast establishment of mindfulness on an object. Quindi il Venerabile Mahasi lo definisce come una consapevolezza ferma, sorry, upandita, close, firm, steadfast. Allora, una consapevolezza vicina, ferma e decisa. And steadfast. Steadfast. Steadfast is steady. Sì. Decisa, ferma. Establishment of awareness on an object. Quindi questo tipo di consapevolezza su un oggetto. Okay. So, now, when it comes to the third definition of the term satipatthana, namely as sati and pa and satnatana, and then the particle pa is being given all sorts of meanings, such as immediacy, and then the mind should be rushing, leaping towards the object and entering into the object, and so on. Allora, invece per quanto riguarda la terza interpretazione, cioè dividendo in sati, pa e tana, allora questo pa, questa particella pa, può dare l'idea di immediatezza, oppure del saltare sull'oggetto, del correre verso l'oggetto, penetrare nell'oggetto. Now, what we need to explain further is the mental factor of mindfulness itself, sati. And this sati, mindfulness, is defined as possessing the characteristic of non-superficiality. Allora, è necessario però definire un po' meglio la parola sati, cioè consapevolezza. E questo ha il significato della non-superficialità. So, when observing an object of observation, then we do not just skim over the surface of this object, but rather the mind and the observing mind should be kind of sinking into the object. Quindi quando osserviamo un oggetto non è sufficiente semplicemente toccarlo così sulla superficie, ma è necessario piuttosto sprofondarsi nell'oggetto con l'attenzione e andare in profondità. And so the example, the two examples given for this in the commentaries are like mindfulness should not be like a dried and hollow gourd that has been thrown onto the surface of a river, but rather it should be like a stone thrown into a river that will sink to the riverbed. Allora, l'esempio che viene dato nei commentari è che la consapevolezza non deve essere come una zucca vuota e secca buttata in un fiume che galleggia praticamente, piuttosto deve essere come un sasso, una pietra gettata nell'acqua che va in profondità. And so, the other illustration would be that of a cork thrown onto the surface of water. E l'altro esempio può essere quello di un tappo di sughero buttato su una superficie d'acqua che galleggia. So, this is what the theory says, and so, when you actually observe some predominant object, then check for yourself whether your observing mind is really sinking into the object or not. If not, then do something about it. Allora, questo è ciò che dice la teoria, ma voi verificate quando osservate il vostro oggetto predominante se la mente effettivamente penetra nell'oggetto oppure se rimane a un livello superficiale. And the function of mindfulness is given in Pali as asamosa rasa, which means non-forgetfulness or absence of confusion. Allora, la funzione della consapevolezza è data come il non dimenticarsi o la non confusione. And so one does not forget the object, one doesn't miss the object of observation, one does not lose sight of it. Quindi uno non dimentica l'oggetto di osservazione, non lo perde e non lo perde di vista. And an example or illustration that the Venerable Sadhu Pandita likes giving, this connection is of a badminton player who in a match will not lose sight of the shuttlecock. Allora, un esempio che piace dare, che il Venerabile Upandita piace dare, è quello di un giocatore di volano che non perderà di vista, come si chiama in italiano? Shuttlecock. Il volano. Quindi con la racchetta non perderà di vista il volano, l'oggetto. So then we have as the manifestation of mindfulness actually two things. The first one is given as confrontation, and the second one as protection. Invece come manifestazione abbiamo la il confronto e l'altro è la protezione. So when an object, predominant object of observation has arisen, then we don't just run away from it, but rather we face it. Allora, quando sorge un oggetto da osservare, allora semplicemente non scappiamo da esso, piuttosto invece lo affrontiamo. We face it, we look at it, and we try to clearly see its features. Allora lo affrontiamo, lo inquadriamo, lo guardiamo bene, cerchiamo di vedere molto bene le sue caratteristiche. And so the Pali for this is visyabhimukha bhava pachupatthana, which means the manifestation of being it's a manifestation of being face to face with the objective field. Quindi questo significa come manifestazione quello di essere faccia a faccia con il campo oggettivo. Now, when the mind is face to face with all the predominant objects observed, and then there would be a certain result. And the result comes in the form of a relatively pure mind. Quindi quando la mente si trova faccia a faccia con gli oggetti predominanti, allora questo avrà come conseguenza è un risultato, e questo risultato sarà una mente pura. A mind that is pure is a mind that is free from unwholesome mental states. Quindi una mente pura è una mente libera dagli inquinanti mentali non salutari. And so the second manifestation of mindfulness is a state of protection or guardianship. The mind is protected against, through mindfulness, against the attack by mental defilements. Quindi per questo la seconda manifestazione è quella della protezione, perché una mente, perché la consapevolezza permette alla mente di essere protetta dall'attacco di questi inquinanti mentali. And so this particular aspect, this last aspect, is really important for the meditators, not just for today, but whenever one tries to be mindful. Namely, when mindfulness is present from moment to moment to moment to moment, and then this is tantamount to saying that the mind would be free from unwholesome mental states. But when the mindfulness is somewhat discontinuous, intermittent, then these unwholesome mental states have a field day, and happily will they arise in the stream of consciousness. Quindi questo è molto importante, non solo in un ritiro, ma sempre, che praticamente quando la consapevolezza è presente ed è continua, momento dopo momento, allora questo impedirà agli stati mentali non salutari di intromettersi. Quando invece la consapevolezza è intermittente, allora questo lascerà spazio agli inquinanti mentali di infilarsi negli spazi. And to be even clearer about this, the next time the mind is overwhelmed by, let's say, strong fear or strong worries about the future, or maybe some anxiety, restlessness, whatever, or some serious doubts, whatever it might be, and you get the feeling you can't handle this situation properly, then please remember this aspect, namely to be mindful again, and as a result of this you'll gain the protection. Ecco, allora quando vi capita l'amministrazione di essere assaliti da una forte paura o preoccupazione per il futuro o dell'ansia o della rabbia, sono questi stati non salutari, allora tenete conto di questo aspetto, cercate di sviluppare la consapevolezza, perché questa vi farà da protezione contro tutti questi attacchi, diciamo. And two things are given as proximate causes for the arising of mindfulness. One is strong perception, and the other one is given as the four establishments of mindfulness themselves. Allora, le due cause prossime per il sorgere della consapevolezza sono una forte percezione nella prima, e la seconda sono le quattro basi, le quattro stabilizzazioni della consapevolezza stessa. And when the perception of an object makes a big difference, this perception of an object may be clear, very clear, or not clear at all. If the mind has to work with the perception, and so if the perception itself is unclear or weak, then naturally the mindfulness will also have nothing really tangible to work with, and the mindfulness will be weak. Quindi anche questo aspetto della percezione è molto importante. La percezione può essere chiara, molto chiara, o non essere chiara, e quando non lo è, allora rispetto all'oggetto, allora anche la consapevolezza non sarà molto forte o molto chiara, l'oggetto non sarà tangibile, e quindi la mente avrà poco su cui lavorare. So, a clear perception of an object, even if the object is weak, will lead to the arising of strong mindfulness. Quindi una chiara percezione dell'oggetto, anche se l'oggetto è di per sé debole, questo porterà ad una forte consapevolezza. And so, then the presence of mindfulness, moment after moment, working with different objects, will produce a strong mindfulness. So the preceding moments of mindfulness will determine the succeeding mindfulness. Quindi una consapevolezza continua, momento dopo momento, porterà ad una consapevolezza sempre più forte. Quindi un momento di consapevolezza è come se fosse la causa del momento di consapevolezza successiva, quindi porterà ad un momento di consapevolezza più forte. If, however, the mindfulness is somewhat intermittent, somewhat sporadic, on and off, that then the resultant mindfulness is going to be weak. Se invece la consapevolezza è sporadica, è intermittente, è una cosa che si accende e si spegne, diciamo, allora la conseguenza sarà una consapevolezza debole. Now, this much for our for a brief explanation on the term sati nipatthana, and then explanations on sati itself. And now let's go into one particular form of this, or one particular establishment of mindfulness, namely Dhammanupassana Satipatthana. Allora, ci fermiamo qui come spiegazione del termine satipattana e di sati in particolare, e andiamo a vedere uno di queste stabilizzazioni della consapevolezza, e in particolare dhammanupassana satipattana. And the Pali term, you know, dhamma can be, you know, translated in many different ways according to context, and so, it could be translated as a group of teachings, etc. However, here, you know, it's best to leave it untranslated. Allora, anche questa parola dhamma può essere tradotto in una varietà di modi in base al contesto. A volte viene tradotto come gruppo di insegnamenti, però qui in questo particolare ambito è meglio non tradurlo e lasciare dhamma. And the Buddha himself specifies something what he means by dhamma, namely, you know, when he speaks of the five hindrances, then the five aggregates and the six sense spheres and so on. Il Buddha stesso spiega cosa intende per dhamma quando indica, per esempio, i cinque ostacoli, i cinque aggregati, le sei basi dei sensi e così via. E così via. And those then are the objects of dhammanupassana satipatthana. Quindi tutti questi sono gli oggetti del dhammanupassana satipatthana. Now, the first among those groups of teachings that mentioned comes in the form of the five hindrances. And the instruction given for them is one knows whether one of the five hindrances has or is present in the meditator or not, and how one knows how it arises, how it is overcome, and how in future it does no more arise. Allora, rispetto alla prima categoria, quindi ai cinque ostacoli, viene spiegato così. Una persona sa quando è presente questo ostacolo, sa come è sorto, sa come è stato superato e sa come evitare che l'ostacolo sorga ancora in futuro. Non sorgerà più. Now, the hindrances, the five hindrances, and at the outset of the talk you've mentioned all of them, I believe. So, sense desire, ill will, sloth and torpor, restlessness and worry, and satna doubt. These are called hindrances because they hinder the proper functioning of the mind, and in particular in the meditation practice. Allora, questi cinque ostacoli che avete menzionato all'inizio del discorso, che sono, magari li ripetiamo, la pigrizia, allora, il desiderio sensuale, pigrizia e torpore, l'irrequietezza, avversione, sloth and torpor, torpore, is that the second? That's number three. The three, okay. I'll say them in order again then. Allora, il primo è il desiderio sensuale. And then ill will. E il secondo è la malevolenza. Okay. Allora, il terzo è l'avversione. Sloth and torpor. La pigrizia e il torpore. Il quarto è l'irrequietezza. E la preoccupazione. And then doubt. E il quinto è il dubbio. Allora, questi cinque si chiamano ostacoli proprio perché impediscono il progredire della pratica. But they're also known to be hindrances because they hinder the arising of absorptions in the samatha meditation, and they're said to hinder the progress in terms of development of wisdom in the Vipassana meditation. Allora, si chiamano ostacoli anche perché ostacolano il sorgere degli assorbimenti nella pratica di samatha, e perché ostacolano anche il progresso della saggezza nella pratica della Vipassana. And so, Among the different objects mentioned under Dhammanupassana, the hindrances come first because in a temporal order they tend to arise first. And so let's say the goal is realization of the Dhamma, and the hindrances tend to arise first. Allora, il motivo per cui all'interno di questi oggetti del Dhamma Nupassana i cinque ostacoli vengono menzionati per primi è per un motivo temporale, perché effettivamente sono quelli che sorgono nella mente per primi. Se mettiamo il raggiungimento del Nibbana come ultimo, diciamo, Dhamma, il primo sarebbero invece i cinque ostacoli. Quindi una progressione temporale. And when the hindrances are present, then they produce an instability in the mind, and one can even say they produce an instability of the body. Quando sono presenti i cinque ostacoli, allora è presente anche una instabilità della mente, e si può dire che c'è anche un'instabilità nel corpo. And under the influence of the five hindrances, it is said that one neither sees one's own good, nor that of others, nor of both. E si dice che sotto l'influenza di questi cinque ostacoli uno non vede il proprio bene, né quello di un'altra persona, né entrambi, quello di entrambi. And from a meditator's point of view, it's important to deal with the hindrances when they arise, and then to learn or acquire the skills to overcome these hindrances successfully. Allora, per i meditatori è importante riconoscere questi ostacoli quando sorgono e anche acquisire quelle abilità che permettono di superare gli ostacoli quando dovessero sorgere. And so when working with the hindrances, it's kind of like a challenge, and as a result of this, the mind will grow in strength. Quindi lavorare con i cinque ostacoli come se fosse una sfida, e il risultato di questo è una crescita della mente come forza, cioè la mente diventerà più forte. Now, the hindrances tend to arise not only at one point in the practice, but certainly at several points. So during the first the insight knowledge, happily they arise. During the third insight knowledge, they return. And then later on in the tenth insight knowledge, they'll be back one more time. Allora, questi cinque ostacoli appaiono in diversi punti della progressione della pratica, vengono fuori nel primo insight, poi di nuovo nel terzo e ancora nel decimo insight. And so one can, even if one doesn't want to encounter these hindrances, they will still come. Per cui anche se uno non li vuole incontrare, questi ostacoli arriveranno comunque. However, as a meditator, one has all the abilities to overcome them. Tuttavia, come meditatore, uno ha meditante, uno ha l'abilità per la capacità per superarli. Now, among the five hindrances, the very first one is sense desire, kama, chanda, nivarana, in the Pali scriptural language. Allora, tra questi cinque, il primo ostacolo è il desiderio dei sensi. And this desire for sense impressions covers a whole range of experiences, namely desiring or wanting to see desirable visible objects, wanting to hear desirable audible objects, wanting to smell desirable olfactory objects, and then wanting to taste desirable gustatory objects, and then wanting to touch or sense desirable tactile impressions. Allora, questo desiderio per le impressioni sensoriali, diciamo, ovviamente copre un'ampia gamma di esperienze, quindi dal desiderio di vedere un oggetto piacevole, al desiderio di udire un suono piacevole, a odorare un oggetto piacevole all'olfatto, di gustare un oggetto piacevole al gusto e infine quello di sentire, percepire con il tatto un oggetto piacevole. And there's even a desire with regard to mental objects, so liking to or wanting to think about some desirable topic over and over and over. Esiste anche il desiderio sensuale riferito alla mente, al desiderio della mente, che è quello, per esempio, di pensare a una, cioè il desiderio di pensare a un oggetto piacevole ripetutamente. And this sense desire covers not just or covers a whole range of states, ranging from let's say a subtle preference to liking, to wanting, to loving, and to grasping, attaching, craving. E anche il grado, diciamo, di quindi questo copre anche tutta un'intera gamma di sfumature rispetto all'atteggiamento che si ha nei confronti dell'oggetto. Quindi può andare da una semplice preferenza al fatto di che una cosa piace, oppure a provare amore per una cosa, o a voler afferrare una cosa, a volersi attaccare a una determinata cosa, and after attachment, craving, quindi un fortissimo di una voglia di avere quella cosa, e via di seguito. Now, the mind the mind tends to go into two very common modes. One mode is to grasp an object, to reach out to an object, and this is usually for a desirable object. And then on the other hand, when it comes to undesirable objects, then the mind will push it away. It will try to then get away from it. Allora, la mente di solito utilizza due modalità. La prima è quello di andare verso l'oggetto e di afferrare l'oggetto, questo normalmente quando l'oggetto è desiderabile. La seconda modalità invece è quella di allontanare l'oggetto, di spingerlo via quando l'oggetto non è desiderabile. And so, obviously, in case of the quality of sense desire is this quality of grasping. Ovviamente la qualità che va con il desiderio sensuale è questa qualità del afferrare, del prendere. Whereas the character or the quality of aversion, of ill will, is pushing away. Mentre invece la qualità dell'avversione o della malevolenza è quello dello spingere via. So when this mental state of sense desire is present in the stream of consciousness, then it will be sticking, the mind will be sticking to the object. Quindi quando è presente questo impedimento, questo stato mentale del desiderio sensuale, allora la mente è come se fosse appiccicata all'oggetto. And when it happens like this, then or when the sense desire is present, then it will manifest in the mind as not giving up an object. E quando è presente questo oggetto dei sensi, allora si manifesterà alla mente come il non rinunciare all'oggetto. So if you like something, then you'll go after the object until you get it. Se una cosa vi piace, voi rincorrerete questo oggetto fino a quando non lo avrete. And then you enjoy it, and then you may want even more of the same. E poi ne godrete e ne vorrete sempre di più. or if it gets boring, then you might want something else. Oppure se vi annoiate, allora vorrete qualcos'altro. Now, the proximate cause for the arising of sense desire is given as seeing enjoyment in things or objects that actually lead to bondage. Allora, la causa prossima del sorgere del desiderio sensuale è quello di vedere vedere la piacevolezza in un oggetto che in realtà porta ad una prigionia, ad un legame, a un a schiavizzare, insomma. Now, the instructions given in the Satipatthana Sutta for, or in the case of mindfulness of the five hindrances, contains five aspects, namely, to know the presence or absence of a hindrance. Quindi nel Satipatthana Sutta vengono date queste istruzioni rispetto ai cinque ostacoli. Quindi quando sorge l'ostacolo, la prima cosa è riconoscere il sorgere di questo oggetto, or the absence of it. Oppure l'assenza, cioè la presenza o l'assenza dell'oggetto. And if the object is, if the hindrance is arising, then to know the conditions that lead to the arising. Se questo ostacolo sorge, allora conoscere le condizioni che hanno fatto sorgere l'oggetto. If the hindrance is present, then to know the conditions that lead to the removal of that hindrance. Se invece l'ostacolo è presente, allora conoscere le condizioni che portano a rimuovere questo ostacolo. And if the hindrance has been removed, then to know the conditions so that it will not arise again in the future. Se l'ostacolo è stato rimosso, allora conoscere le condizioni in base alle quali questo ostacolo non sorgerà nuovamente in futuro. Now, when it suddenly comes to the arising of an hindrance, or from a meditator's point of view, already a lot is gained if the meditator realizes, ah, such and such hindrance has arisen in my stream of consciousness. Quindi dal punto di vista del meditatore è già una cosa molto della pratica, è già una cosa molto importante se il meditante riesce a riconoscere che questo particolare ostacolo è sorto nel flusso della coscienza. And this is not that obvious, because meditators tend to identify with the mental states that arise. E questo non è così ovvio, perché i meditanti tendono a identificarsi con gli stati mentali che sono sorti. So, to give you an example, doubt may be there, but the meditator might not even realize that this is doubt. Per esempio, potrebbe esserci il dubbio, ma un meditante potrebbe non rendersi neanche conto che il dubbio è presente. A meditator may have thoughts about things he or she has done or said in the past and will feel bad about it, and the meditator might not even realize that this is regret. Il meditante potrebbe avere dei pensieri rispetto a delle cose fatte nel passato, potrebbe essere triste rispetto a queste cose, ma potrebbe non rendersi conto che questo è l'ostacolo del rimorso. So, when you are overcome by some difficult mental state, then try to find out for yourself, what is this? Try to reduce it to its essence. Allora, quando vi sorge uno di questi stati mentali negativi, provate a chiedervi, ma che cos'è questo? E cercate di ridurlo alla sua essenza. And once you have the essence of what is going on, the essence, the essential mental state, and you then start labeling it, then this will already contribute greatly to its dissolution. E quindi quando arrivate alla sua essenza e riuscite a vedere questo stato mentale ed etichettarlo, allora già questo è una cosa che potrà provocare o va nella direzione della sua dissoluzione. So seeing a hindrance as a hindrance is already an important step ahead. Quindi vedere un ostacolo come un ostacolo è già un importante passo avanti. And so, then the opposite is also possible, that after a while, the hindrances are absent. And when they're absent, then one also needs to be aware of this, because this then leads to a different set of mental states. Allora, la cosa successiva che può accadere è che gli ostacoli mentali, gli ostacoli sono assenti, e questo è anche importante da riconoscere, perché questo può portare a tutta una nuova serie di stati mentali. So, previously, sense desire was there, now it is absent. Allora, per esempio, precedentemente c'era il desiderio sensuale, adesso è assente. And so, instead, some gladness might be there, some joy might be there, some tranquillity might be there. E al suo posto potrebbe esserci della felicità, ci potrebbe essere della gioia, della tranquillità. Some happiness might be there. Sì, della felicità. Etc. Okay. Then, when it comes to the next aspect, namely, if a hindrance is arising, then to know the conditions that lead to the rising, then in the case of sense desire, one needs to realize or know how frequent thoughts, sensuous thoughts, will naturally nurture the sense desire. Allora, per quanto riguarda invece il terzo aspetto, cioè quello di vedere le cause che hanno provocato il sorgere dell'ostacolo, allora, a proposito del desiderio dei sensi, allora uno può pensare a quali sono quei pensieri che hanno in qualche modo nutrito questo desiderio sensuale. So, if you keep thinking all day long about going to the movies, then most likely in the evening you'd be going to the movies. Se uno pensa tutto il giorno, per esempio, alla possibilità di andare al cinema, allora alla fine della giornata probabilmente finirà con l'andare al cinema. Owing to bad weather and whatnot, you keep thinking about spending your next vacation somewhere along the coastline, then most likely that's where you're going to go. Oppure, a causa del brutto tempo, uno se dovesse continuare a pensare di passare le prossime vacanze al mare, allora alla fine probabilmente è quello che farete. And let's say if you're hungry and you're thinking of how wonderful it would be to eat some superb Italian pizza, and you walk down the street, then you'll be seeing mostly pizza parlors. Allora, se avete fame e avete il pensiero di come sarebbe buono mangiare, come sarebbe bello mangiare una buona pizza italiana, allora andrete giù per la strada e vedrete probabilmente tante pizzerie. So, what we do with the mind, the way we incline the mind, will have a certain effect. Quindi il modo in cui noi direzioniamo la mente, dirigiamo la mente, questo avrà un suo effetto. And another thing that contributes to the arising of sense desire are obviously also the presence, the existence of some external desirable objects. Ovviamente una cosa che contribuisce a sorgere dei desideri sensoriali o sensuali, non so, è il fatto che esistano che effettivamente siano presenti degli oggetti desiderabili ai sensi. And so, and then, you know, if one has gratified the or satisfied, you know, certain, you know, desire, you know, then most likely there'll be even more of it arising. E se uno ha soddisfatto, ha gratificato questo desiderio, allora molto probabilmente ce ne sarà sempre di più. Okay. Now, just like there is the nourishing of sense desire, there's also the denourishing of sense desire. So, if instead of thinking, going to the movies, one thinks about renunciation, meditating, then in the evening, most likely one won't go to the movies. Allora, abbiamo parlato di come si nutre il desiderio sensoriale, ovviamente c'è un modo per denutrire, cioè per non nutrire questo desiderio. Allora, per esempio, se uno, quando sorge il pensiero, il desiderio di andare al cinema, se uno invece pensa a, per esempio, alla rinuncia oppure alla meditazione, allora è facile che alla fine della giornata non ci vada al cinema. No. Once a hindrance is present, then one needs to know the conditions that lead to its removal. And one of those conditions lies in mindfulness itself, as explained, one tries to be aware of the hindrance right away. And another condition that leads to the removal of sense desire is that of the restraint of the senses. Allora, per quanto riguarda invece il riconoscimento di, della causa o di ciò che permette l'eliminazione di questo ostacolo, del desiderio dei sensi, allora sono di due tipi. Il primo è una forte consapevolezza, quindi riconoscere che esiste questo ostacolo, questo oggetto, questo stato mentale, e l'altro invece è il controllo dei sensi, il limitare i sensi. So, let's say you're walking down the street, you're walking past this cinema hall, and there's plenty of advertisement there advertising the next few movies. No, if you don't look at that advertisement, then you won't be very interested in the whole thing. Allora, tornando all'esempio del cinema, se voi camminate lungo la strada e passate davanti a un cinema, ci saranno fuori probabilmente tutte le locandine, la pubblicità per i film. Se voi non guardate questa pubblicità, probabilmente non avrete interesse per quel film. And so restraint of the senses is a simple, very simple method, but very effective. Quindi questo controllo dei sensi è un metodo molto semplice ma molto efficace. And so with more and more practice, one comes to understand, better understand the nature of the mind and how easily it goes into sense desire, and out of this understanding, then sooner or later grows a willingness to restrain one's senses when it comes to very desirable objects. Allora, con la pratica, allora uno arriva a conoscere sempre di più, sempre meglio la natura della mente e come la mente va verso questa gratificazione del desiderio sensoriale, e ciò facendo si svilupperà una tendenza al limitare sempre di più i sensi. Ho detto tutto? And then, apart from being mindful and restraining the senses, other methods are being recommended, such as contemplation of foulness or contemplation of death, and so on and so forth. But no, we're not going to go into this because it's slightly off topic. Allora, oltre allo sviluppo della consapevolezza e al controllo dei sensi, ci sono degli altri modi per limitare il desiderio sensuale e sono per esempio la contemplazione delle, delle cose disgustose, diciamo, del corpo e la contemplazione della morte. Però non entreremo in questo merito perché non è tanto in argomento. No, the last aspect mentioned is to know the conditions that prevent the future arising of the same hindrance. Il quinto aspetto è il conoscere le condizioni che prevengono il sorgere futuro di questo ostacolo. And so, in the case of sense desire, it is so it comes with the attainment of the third level of enlightenment, namely anagami hood, when one becomes a non-returner, and with this the sense desire will be removed once and forever. Allora, questo avviene allo stadio al terzo stadio di illuminazione, quando uno diventa un anagami. Allora, in questo stadio i desideri sensoriali sono eliminati per sempre. Now, let me conclude today's Dhamma talk by wishing may the practice of mindfulness help you or serve you well to deal properly with the hindrances of sense desire, but also with the other or remaining hindrances, and thus overcoming the hindrances may your meditation unfold nicely and eventually lead you to the realization of the goal of Nibbana. Allora, Venerabile augura che si, attraverso lo sviluppo di questa consapevolezza che si possa affrontare, si possano affrontare i cinque ostacoli, l'ostacolo dei piaceri sensoriali ma anche gli altri, e attraverso il superamento di questi ostacoli che la pratica possa progredire velocemente e arrivare alla meta finale, cioè alla meta del Nibbana. Well, and that's it. Okay. Now, do you have any questions or comments? Ci sono domande o commenti? Yes. Mihai. Remorse is a hindrance. Remorse. Yes. It's not one of the five classical hindrances. Is it a variation of something else? Yeah, no, it's a a different word, a different way of putting, or instead of worry, you can also say remorse. Mm-hmm. So it's, it comes under the term kukucha, and this term kukucha can be translated as worry, but it can also be translated as regret. Mm-hmm. Marco chiedeva se a caso di rimorso, mettendolo nei cinque ostacoli, e chiedeva se era una variante sul tema, e rientra un pochino rientra nel termine preoccupazione. A volte può essere questo cucuccia, può essere tradotto come preoccupazione o come rimorso. Ok. Yes, Marco. Volevo sapere, quando la consapevolezza ancora non è ancora sviluppata e uno pratica la rinuncia, queste cose qua, non c'è il rischio di reprimersi, diciamo, ecco, verso le cose? So he's saying, if a mindfulness hasn't developed yet to a strong degree, if you practice renunciation, can't this be counterproductive in the sense that you're probably like that you're suffocating something, you're repressing some mental states? Well, if your mindfulness is still weak, then those hindrances will overtake your mind. Beh, se la tua consapevolezza è debole, allora quegli ostacoli continueranno ad avere a prevalere sulla tua mente. No, unless you gain the upper hand through concentration. a meno che tu non giochi a tuo vantaggio, quindi non trasformi la situazione a tuo vantaggio praticando la concentrazione. No, so it's several mental factors working together, and the mindfulness will do its share, and then concentration will also contribute to working with these hindrances and overcoming them. Ci sono diversi fattori mentali coinvolti, uno è la consapevolezza, l'altro è la concentrazione che verrà in aiuto alla consapevolezza per superare questi ostacoli. However, if, as mentioned, if the mindfulness is weak and the concentration is also still weak, then the hindrances will win the battle. Però se la consapevolezza è debole e lo è anche la concentrazione, allora gli ostacoli vinceranno la battaglia. No, but it's a gradual process, so the more the more you have to deal with the hindrances, the stronger the mind gets. And on top of that, during that phase in the practice, pains and aches also tend to arise, and working with the pain is a way of sharpening one's certain concentration, and that certainly then helps in dealing with the hindrances. Allora, è un processo graduale, e man mano che tu affronterai questi ostacoli, allora la mente si rinforzerà. E in questa fase potrebbero sorgere anche molti dolori, il fatto di lavorare sul dolore svilupperà la concentrazione e questo quindi ti aiuterà a sua volta a superare gli ostacoli. Ok, what else? What? If not, then no, we can do the metta chanting. Allora facciamo tanto di metta. Okay.